Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. L'IMU, ossia l'allarme lanciato anche dai centri di assistenza fiscale, che in una lettera al Ministro dell'Economia hanno detto: attenzione, mancano le indicazioni sull'IMU, solo il 6%, l'IMU che è la nuova ICI, solo il 6% dei comuni ha deliberato la nuova aliquota e avranno tempo fino al 30 settembre. Se passerà l'emendamento presentato in Senato che proroga questo termine dall'originario 30 giugno al 30 settembre. Però la prima rata, e questo lo ricordano appunto i centri di assistenza fiscale, va pagata entro il 16 giugno. E allora gli operatori chiedono di applicare le aliquote di base oppure di prorogare il termine. Insomma, un po' un caos sulle aliquote fissate per l'importo dell'IMU. Ne parleremo nella seconda ora del programma. Vedo che c'è chi già scherza e dice: perché non interpellate il presidente dell'INPS che ha tutti i dati sotto mano? Vabbè, la figura non esaltante di Mastro Pasqua riguardava in realtà gli esodati, e anche qui ascolteremo alcuni passaggi, perché sugli esodati mi sembra che ci siano poche idee ma confuse anche dentro il governo. Chi dovrà coprire la cosa? C'è una dichiarazione di Emma Marcegaglia anche su questo. Comunque vi arriveremo con ordine. Tema di apertura riguarderà invece i giovani, o meglio i giovani che non lavorano, perché il dato di oggi sulla disoccupazione è un dato allarmante, a dimostrazione, lo dico subito, che come abbiamo detto più volte in questo programma, la riforma del mercato del lavoro è importante, ma è importante soprattutto nella parte all'ingresso. Sulla parte in uscita, uno può pensarla come vuole, sull'articolo 18, sulla riforma proposta, ma non si dica che quella è l'emergenza del paese e che con quella modifica arriveranno gli investimenti stranieri. C'era un pezzo, a mio avviso esemplare, di Sergio Rizzo ieri sul Corriere della Sera, in cui si chiariva quello che modestamente noi diciamo da settimane: il motivo per cui gli investimenti esteri in Italia sono crollati anche nel 2011, sul 2010, ma comunque restano bassissimi, cioè noi non riusciamo a attrarre investimenti di paesi molto molto più piccoli rispetto a noi, penso al Belgio. Beh, il motivo si chiama criminalità e quindi corruzione, lunghezza e lungaggine della giustizia civile, quindi incertezza del diritto, e burocrazia, gli adempimenti richiesti, i tempi necessari per ottenere questi adempimenti. Poi ci sarà anche l'articolo 18, ma attenzione a non enfatizzarlo troppo. E poi faccio una proposta prima di partire con la notizia in breve: se noi chiedessimo agli imprenditori: preferite in questo momento una modifica dell'articolo 18 o che lo Stato organizzi il pagamento dei 70 miliardi di euro che la pubblica amministrazione deve alle imprese, spesso piccole e medie, nei due terzi dei casi nel settore sanità, e quindi organizzare un rientro su questi arretrati? Il ministro Corrado Passera ipotizzò a dicembre, gennaio, di pagare questi arretrati con dei bot, magari da portare a scadenza, ma qualcosa che dia la possibilità a queste persone di andare in banca e dire: guardate, ho la garanzia che lo Stato mi pagherà, datemi un fido equivalente o lasciatemi il fido che già ho. Ecco, se facessimo un sondaggio come questo, secondo me la risposta sarebbe in stragrande maggioranza: intanto lo Stato paghi quello che ci deve, o come credito d'imposta o come acconto con obbligazioni, e poi ragioniamo del resto. Questo per rimettere ordine alle priorità, che non vorrei che il governo sull'articolo 18 stesse facendo un po' di melina, un po' di fumo, per non parlare dei temi veri. Abbiamo ricevuto anche durante il fine settimana e dopo l'intervista di venerdì decine di mail, sms e post su Facebook di imprenditori che non solo stanno per chiudere perché hanno difficoltà con le banche, non c'è credito bancario, il mercato si è spostato. È vero quello che scrivono alcuni, che il problema origina prima della crisi, perché c'è tutto uno spostamento dell'asse manifatturiero verso l'Asia, e che penalizza i nostri fornitori, i nostri terzisti, i subfornitori. Ma molti ci scrivono che stanno per chiudere nonostante vantino centinaia di migliaia di euro, se non in alcuni casi milioni, di crediti nei confronti dello Stato. Però siccome lo Stato non li paga, le banche gli ritirano il fido. Ora, e intanto però Equitalia su questo è precisissima. Allora, veramente oltre al danno alla beffa, questo è inaccettabile. Un'impresa che chiude, quindi l'imprenditore, i dipendenti, perché lo Stato è in ritardo con i pagamenti, ma non è in ritardo con la cartella fiscale, e la banca se ne frega, tra virgolette, quindi dice tu questi soldi non li hai o comunque per me sei a rischio, è veramente, non so neanche come definirlo, umiliante per l'imprenditore stesso, oltre che una tragedia, perché veramente è lo Stato poi magari fra due anni, quando l'impresa non ci sarà più, ritornerà i soldi. Qui siamo arrivati a un anno e mezzo, due anni in alcuni pagamenti. Per favore, anche al governo, va bene l'articolo 18, ma occupatevi delle vere emergenze. Alle 18 avremo i dati sulle immatricolazioni auto, partiremo appunto con la disoccupazione giovanile, oggi purtroppo a nuovo record, al massimo dal 2004, ci siamo mangiati 5 anni diciamo di calo della disoccupazione. 349-238-6666 per i vostri sms, e rapidamente le altre notizie in breve. C'è chi dice che mi scrive che dico troppe volte allora. Vabbè, mi correggerò invece. C'è chi scrive anche, attenzione, non siate polemici che inizia la settimana santa. Mi dispiace deluderla, non saremo polemici, però anche oggi la nostra rubrica su cos'è questa crisi, qualche chicca ce l'ha. Andiamo rapidamente però con i mercati. Prima, meno 0,30% Milano, più 0,90% Parigi, più 1,40 Francoforte, più 1,13 Londra, invariata sostanzialmente l'America, più 0,12%, da noi in negativo titoli non pesantissimi nei cali, però Enel meno 2,1 come A2A e Azimut, Buzzi Unice meno 1,70 come Unicredit, Popolare di Milano meno 1,5 come Enel, Fiat meno 1,40, Mediaset meno 1,3 come la Popolare Emilia Romagna, l'1% lo perde Finmeccanica, ma anche Intesa San Paolo, Parmalat e Generali. Bene, molto bene, Pirelli quasi il 4% di rialzo, Ferragamo più 2,60, Diassolin più 2,20, in recupero dopo il tonfo della settimana scorsa a Monte dei Paschi, in recupero parziale, più 2%, Fiat Industrial più 1,20, Tods più 1, Tenaris più 1, Prismian più 0,70. Petrolio in leggero calo a 102,5 dollari il barile. Nel frattempo dall'Europa si è avuta notizia che la Bundesbank, la banca centrale tedesca, continua a accettare tutte le obbligazioni europee come garanzia, e quindi non è vero, era venuto fuori un po' di maretta venerdì perché alcune dichiarazioni facevano intendere che la Bundesbank avrebbe smesso di accettare le obbligazioni greche come garanzia, di fatto a quel punto certificando il fallimento anche formale della Grecia. Nel momento in cui non accetta più la Bundesbank come la garanzia, voi capite che l'effetto domino è immediato. Invece oggi il portavoce della banca federale tedesca ha risposto che continua a accettare come garanzia tutti i titoli di Stato di tutti i 17 paesi dell'area euro. E poi le dichiarazioni di Mario Monti questa mattina all'Alba: la crisi è superata, era l'ultima parte del suo viaggio cinese, il suo viaggio asiatico. È intervenuto infatti al Boao Forum for Asia, che è la Davos d'Oriente, speriamo che ci imbrocchino un po' più da Davos a casa nostra, e dice, ha detto Monti: sono volato in Asia per chiedervi di rilassarvi un po' circa la crisi dell'area euro, che è superata grazie anche al più solido sentiero imboccato dall'Italia. Io però per scaramanzia, un gufetto, massimo rispetto per Mario Monti, però nel momento in cui dice che la crisi è superata, il gesto scaramantico viene naturale, dai. Vabbè, per Mario Monti la crisi sarà anche superata, la crisi dell'Eurozona, però un po' di confusione aleggia nel governo, che a mio avviso si è incagliato sull'articolo 18. Però, allora, le dichiarazioni rese ieri nel programma in onda sulla 7 dal sottosegretario Gianfranco Polillo, sottosegretario del Ministero del Tesoro, parla tantissimo Polillo, so che l'hanno già fatto notare, ma è dovunque, parla, sembra quasi un portavoce, comunque. E poi parla, ma evidentemente non si è consultato con gli altri, era delle due l'una, perché Polillo ieri ha detto attenzione sugli esodati, cioè coloro i quali si trovano nella simpatica situazione per cui hanno accettato lo scivolo con l'azienda, quindi sono usciti i cosiddetti prepensionamenti. Però poi quello scivolo lì serviva con la vecchia pensione, con la vecchia età pensionabile, con la nuova, con la riforma, loro si trovano con un buco in cui non hanno né lo scivolo né la pensione. Ecco, sugli esodati, ieri Polillo ha stabilito una versione abbastanza interessante, cioè ha detto sostanzialmente, visto che l'accordo di prepensionamento, lo scivolo era fatto con l'azienda, beh, devono essere che le aziende a pagare per quell'accordo, devono... Gli esodati possono chiedere che quell'accordo sia nullo sostanzialmente, o le aziende ne trovano un'altra formula o l'accordo è nullo, quindi verrebbero reintegrati. Ma tra l'altro poi ha aggiunto una cosa ancora migliore, non necessariamente devono essere reintegrati nella stessa azienda. Comunque sentiamo questo passaggio di Polillo. Io le dico, lei ha fatto un accordo con le aziende, se cambiano le condizioni che hanno legittimato quell'accordo, lei è in grado, ai principi generali dell'ordinamento giuridico, di chiedere che quell'accordo sia nullo. Oggi ha risposto ieri sera il sottosegretario del Ministero del Tesoro Gianfranco Polillo: se ha una buona ricetta per risolvere il problema degli esodati se ne faccia carico personalmente. Fonti del Ministero del Tesoro che hanno commentato la dichiarazione di Polillo. Poi dopodiché è calato il sipario su questo. Adesso comunque arriviamo al mercato del lavoro e soprattutto al record di disoccupati giovanili, però anche oggi qualcosina sulla crisi degli altri, su chi la crisi la vive in maniera un po' strana ce l'abbiamo, Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Perché se abbiamo scoperto che i 10 paperoni più benestanti in Italia hanno una ricchezza pari a 3 milioni di italiani più poveri, cioè la ricchezza dei 10 più ricchi d'Italia è valutabile in circa 50 miliardi di euro, e questo mentre i giovani sono sempre più poveri, il dato è stato pubblicato dalla Banca d'Italia, Occasional Papers, che analizza l'evoluzione tra la ricchezza e la disuguaglianza nel paese e scopre, si fa per dire, che è aumentata in questi anni la disuguaglianza nel paese, soprattutto negli ultimi 10 anni. C'è chi scrive che io sono sistematicamente ostile verso il governo Monti, ma allora decidetevi, perché c'è chi scrive che sono filo Monti, contro Monti. Diciamo che non è la Bibbia, non è la Madonna, è un governo che sta creando ottime condizioni per questo paese sul fronte internazionale. Qualche cosa si può anche criticare Monti ogni tanto, penso, no? Un po' di confusione sull'articolo 18 si è creata, sugli esodati si è creata. Comunque, dicevo, mentre la Banca d'Italia osserva come si è aumentato il divario tra giovani sempre più poveri e una ricchezza dei primi della classe costituita sempre di più dal patrimonio, beh, sicuramente appartengono ai ricchi alcuni membri della famiglia La Russa, Ignazio La Russa, coordinatore del PDL, ma insomma il figlio Geronimo e il fratello Vincenzo, lo si è scoperto oggi in merito al bilancio 2011 di Fondiaria Sai è a un passo dal fallimento, 1.600.000.000 di debiti, e però ha avuto spazio e soldi per dare complessivamente a Geronimo La Russa e Vincenzo La Russa, rispettivamente appunto figlio e fratello di Ignazio La Russa, consulenze legali per complessivi 670.000 euro l'anno scorso. Saranno state tutte quante importantissime, però In totale i servizi ricevuti da altre parti correlate, quindi consulenze di vario genere, pensate, ha speso 5 milioni 600 mila euro l'anno scorso Fondiere Assai, e tra l'altro 1 milione 420 mila euro a Fausto Rapisarda, 350 mila euro a Geronimo La Russa, consigliere di Premafin, 320 mila euro a Vincenzo La Russa, consigliere di Fondiere Assai, da cui ha ricevuto 566 mila euro a sua volta. 250.000 euro invece le ha pagate al proprietario Salvatore Ligresti, che pur essendo proprietario è stato pagato di nuovo anche l'anno scorso per consulenze, 250.000 euro per consulenze tecnico-immobiliari. Ma sei tu alla società, ma che consulenze devi dare? Io non, veramente non lo so. E poi però si viene a sapere che Fondiere Assai ha deciso di interrompere il rapporto con il consulente che è il proprietario, ma era un mito questa cosa, anche perché aveva ricevuto già dal 2003 al 2010 40 milioni, Salvatore Ligresti aveva ricevuto 40 milioni di euro pur essendo il proprietario di Fondiere Assai come consulente di Fondiere Assai. È bellissimo, è un po' come quando Marzullo dice a uno fatti una domanda e datti una risposta, lui, cioè, lui faceva il consulente della cosa che, di cui era proprietario. Ma non basta, perché la compagnia, che ripeto affonda sotto 1 miliardo e 600 milioni di euro di debiti, nel 2011 è riuscita a distribuire ai membri del CDA, del Consiglio di Amministrazione, 30 milioni di euro di compensi. Magari è per questo che poi nel CDA nessuno ha parlato. Nel caso specifico, Ionello Ligresti 2 milioni e mezzo, il vicepresidente Paolo Ligresti 2 milioni e 100, l'ex vicepresidente Giulia Ligresti 837 mila e poi all'ex amministratore delegato Fausto Marchionni, dimessosi a inizio 2011, sono andati 10 milioni di euro di buona uscita. Allora, è chiaro che si tratta di un gruppo privato, che vi sarà stato un accordo e che è tutto legale, ma un giorno una riflessione sulla governance dei privati la vogliamo fare? Cioè, com'è possibile che un manager che lascia una compagnia assicurativa sprofondata dai debiti, 1 miliardo 600 milioni, riceva 10 milioni di euro comunque di compensazione? Vuol dire che cascano sempre in piedi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Eh sì, scrive un ascoltatore, datti un incarico e pagati, fai l'autoconsulenza. C'era l'autocoscienza una volta, adesso siamo all'autoconsulenza. Però secondo quando ricostruiscono tra l'altro sia il Fatto Quotidiano che l'Espresso, per Fondiere Assai ha lavorato per un anno anche il figlio del presidente dell'autorità di controllo sulle assicurazioni, quindi il figlio di Giancarlo Giannini, che si chiama Andrea, e tra l'altro l'Espresso cita anche un prestigioso palazzo romano ai Parioli di proprietà di Ligresti, dove abitava Marco Cardia. Chi è Marco Cardia? Il nome dice qualcosa. È il figlio dell'ex presidente della Consob, Lamberto. Tra gli altri inquilini illustri del palazzo di proprietà di Ligresti, non, sono tutte coincidenze, ci mancherebbe. Ci sono Angelino Alfano, Renato Brunetta, Italo Bocchino, Chiara e Benedetta Geronzi. Ma insomma, al di là di questi, che il figlio del presidente della Consob stia nella casa di chi il padre deve vigilare, e vigilare male visto quello che è successo, e questo vale anche per il figlio del presidente dell'ISVA, per l'autorità che deve vigilare e vigilare male, è dipendente di Fondiere Assai, fa venire il sospetto del tutto illegittimo, ci mancherebbe, che insomma ci sia un po' distratti su Fondiere Assai. E invece non si è distratto il mondo del lavoro, perché oggi altri figli meno fortunati contribuiscono a dare il record sulla disoccupazione. Ho ancora due notizie su questa crisi, poi parliamo di disoccupazione però. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, perché mentre in Ungheria il presidente Schmidt si è dimesso per una tesi copiata, dopo anni di tentativi in Italia invece i 132 dipendenti di Sviluppo Italia Calabria hanno trovato una sistemazione. Si è accollata tutto Fincalabria, la finanziaria regionale pubblica, che ha una marea di partecipazioni societarie, dalla vetrerie mediterranea a Telestar, dal Radio Televisione di Calabria ai consorzi di sviluppo industriale, a Elifly, che è una società di Brescia attiva nel noleggio di elicotteri, non si capisce perché Fincalabria debba essere dentro Elifly. E comunque Tra le partecipazioni anche la Settignano Sviluppo S.P.A., che ha come scopo sociale quello di promuovere la nascita di nuove imprese. Con questa motivazione, Settignano Sviluppo S.P.A. ha assorbito Sviluppo Italia Calabria, con tutto il personale. Quindi possiamo dire che la Settignano Sviluppo S.P.A. non ha per ora dato grandi risultati come sviluppo di nuove imprese, ma intanto ne ha assorbita una. E, tra l'altro, Sviluppo Italia Calabria era stata battezzata in questi anni Sviluppo Italia Parenti. Pensate che, cioè, su 132 dipendenti, 34 persone erano state assunte negli anni in quanto figli, fratelli e congiunti di ex sindaci, ex parlamentari, sottosegretari, ma anche giudici, marescialli, dirigenti regionali e anche politici in carica. Insomma, c'erano proprio tutti dentro. E un'ultima notizia riguarda invece lo studio della CNA. Per aprire una carrozzeria nel nostro paese sono necessari, torniamo al punto del perché non si investe, 64 adempimenti burocratici, 13 amministrativi, 6 di urbanistica, 20 ambientali, 20 sulla sicurezza, 8 gestionali. Leggetevi solo 24 ore di oggi, è incredibile. Per un ristorante servono 56 adempimenti, 13 amministrativi, 6 urbanistici, 12 ambientali, 20 per la sicurezza, 5 gestionali. Per un negozio di alimentari 53, ma che è la NASA? Rispetto al 2006 gli adempimenti necessari per una carrozzeria sono 12 in meno, quelli per il ristorante 7 in meno. E comunque, insomma, se questo è il risultato della semplificazione in 6 anni, ancora non ci siamo. (349) 238 6666 per i vostri sms. Tasso di disoccupazione allarme da gennaio 2004, che non si vedeva una disoccupazione al 9,3%, e purtroppo il dato è confermato sia sul fronte disoccupazione che anche sul fronte occupazione. Mi segnala un ascoltatore che in Calabria, nella Locride, c'è un'agenzia noleggio yacht, elicotteri, aerei e auto di lusso. Ora, ci mancherebbe, però, ma perché ogni tanto, non so, la finanza non controlla anche nella Locride chiuse lo yacht di lusso, l'elicottero di lusso? Non perché non si possa, ci sono ricchi e assolutamente onesti anche in Calabria, però, vista la penetrazione dell'andrangheta, magari scoprirebbero qualcosa di interessante, no? No. Parliamo del paese reale, di quello che appunto ci mette 53 o 56 permessi per aprire una banalissima carrozzeria o anche 53 per aprire un negozio di alimentari, o quello che vede i figli sostanzialmente non trovare un lavoro. 9,3% la disoccupazione a febbraio, il tasso di occupazione è al 56,9%. Lavorano a febbraio 22 milioni e 918 mila italiani, ossia 30 mila in meno rispetto a gennaio. E come mai 30 mila in meno? Perché sono uscite dal mercato del lavoro 44 mila donne, e mentre sono entrati come occupati nel mondo del lavoro 15 mila maschi. Che è un effetto della crisi, cioè va a scaricarsi sulle fasce più deboli. Giovani, donne, se poi una è giovane e donna, auguri. Per i giovani sotto i 25 anni il tasso di disoccupazione ormai è al 32%, ma qualcuno se ne vuole occupare? In aumento del 4% su base annua, più 4%, e in alcune aree del mezzogiorno ormai la disoccupazione giovanile sfiora il 50%, poi ci sarà pure il nero. Ma insomma, professor Pietro Garibaldi, che insegna economia politica all'Università di Torino, direttore del Collegio Carlo Alberto, e ha messo a punto assieme al suo collega Tito Boeri un progetto di riforma del mercato del lavoro che era un po' diverso da quello del ministro Fornero. Buonasera. Buonasera. Allora, prima la sento molto male, mi sente? Io la sento, sì, lei mi sente? Sì, ecco. Allora, prima di arrivare al commento su questo dato che faremo dopo il meteo, mi dici una cosa però sull'articolo 18? Certo. Allora, il mercato del lavoro va riformato, c'è una giungla di contratti, una precarizzazione dei nuovi ingressi. Voi, lei e Boeri, avevate proposto di avere un contratto unico che diventava via via più rigido più io stavo in un'azienda. Esatto. Però una cosa me la dica lei. Quando si dice che l'articolo 18 allontana gli investimenti, cioè, è veramente questo il problema? Ma io personalmente parlo da economista, al di là delle mie opinioni, non vi è evidenza empirica chiara che dimostra che uno dei problemi per cui gli investimenti seri in Italia non avvengono è per l'articolo 18 in particolare. Vi sono tanti problemi nel paese, la crescita, il settore pubblico troppo allargato, il debito pubblico, ma l'articolo 18 è difficilissimo trovare evidenza scientifica che dimostra che è il fattore cruciale per gli investimenti stranieri in Italia. Cioè, se io le dico tra la giustizia civile, la burocrazia, i 53 adempimenti e la criminalità organizzata barra corruzione, forse sono questi. No, perché lo diceva anche Jean-Paul Fitoussi da Cernobbio venerdì, però io non mi permetto di no, elevarmi, chiedo a voi professori, visto che siete, diciamo, avete i vostri colleghi al governo, volevo capire, prego. È un paese in bassa crescita, ovviamente tu non investi dove le aspettative di crescita sono molto basse, quindi il problema principale dell'Italia è la crescita, ovviamente, oltre a una bassa crescita, che indubbiamente se all'estero non metti i soldi dove vi è bassa crescita, vi è anche un paese che funziona male dal punto di vista organizzativo in senso lato, incluso appunto la giustizia, è un settore pubblico inefficiente, quindi indubbiamente quelli sono i fattori cruciali per l'investimento esteri in Italia, e non vi è nemmeno evidenza empirica che dimostra che davvero l'articolo 18 è cruciale. Questo è la somma delle due cose. No, lo dico al di là di qualunque giudizio uno abbia, a me basta, cioè uno può ritenere che sia buona la riforma del ministro Fornero, altri dicono ma anche in Germania e in Francia però c'è il reintegro. Tutto quello che io non sto, dico semplicemente basta non raccontarsi che in questo modo ripartono gli investimenti stranieri, quando hai appunto nella Locride quello che abbiamo appena raccontato, senza nessuna offesa per i calabresi, ma ragazzi, ma cosa volete che investa uno che vede che Sviluppo Italia Calabria viene assorbita da Settignano Sviluppo S.P.A. e ci sono 34 parenti su 130 dipendenti? Abbiate pazienza, ormai molte società ci risulta chiedono agli imprenditori italiani per aprire in Italia di registrarsi come sede legale in Inghilterra, cioè una LTD, non vogliono avere rogne legali con questo paese. Mi scusi se l'ho interrotto, professore. No, certo, ma guarda, in due parole, a me sembra evidente che in questo momento la riforma del mercato del lavoro purtroppo fa certamente una cosa che non dovrebbe fare, ossia è aumentare l'ansia in un paese che è già abbastanza depresso e che ha bisogno di fiducia, in particolare i cittadini hanno bisogno di fiducia, hanno bisogno di tranquillità. Purtroppo in questo momento, con il baccano che si è verificato, aumenta l'ansia nella popolazione, in parte per motivi irrazionali, però questo è un dato di fatto. Mentre siamo quasi certi che aumenta in qualche modo l'ansia, siamo molto poco certi che aumenteranno gli investimenti stranieri. Ecco, le faccio una domanda e poi veramente andiamo in pubblicità, ma una riforma del mercato del lavoro, adesso a voler essere rigorosi, non andrebbe fatta con un'economia in crescita? Cioè in questo momento le imprese che noi intervistiamo, i piccolissimi, hanno il problema di restare aperti, non di licenziare, ci sarà sicuramente chi ha problemi anche con i dipendenti, ed è giusto che un'impresa possa privarsi di un collaboratore se ne vuole assumere un altro perché questo collaboratore non funziona. Però in questo momento mi sembra che l'allarme che arriva dal mondo degli artigiani, del commercio, delle piccole imprese sia teneteci aperti, le banche non ci danno soldi, lo Stato paga in ritardo 70 miliardi di euro, il mercato e la domanda interna è ferma, o no? Dunque, questo, quello che lei dice è senz'altro vero, ovviamente tenerci aperto purtroppo non possiamo farlo aiutandoli economicamente, cioè i soldi sono pochi, quindi dobbiamo trovare dei modi per aiutarlo che non sono semplicemente aumentare sussidi verso queste categorie. Il vero problema nel mercato del lavoro sono i giovani, ne parleremo immagino tra poco parlando sì, anche dei dati di oggi, quindi al di là della recessione e dell'espansione è necessario riformare con un'ottica verso i giovani, di cui i dati immagino discuteremo e dimostrano quanto è drammatica la situazione dei giovani, oltre a quella delle piccole imprese che diceva lei. Professor Garibaldi, che si fa, lo dico con massimo rispetto, per questi giovani? Può servire la riforma del mercato del lavoro in ingresso, quello sì? Oppure dobbiamo rassegnarci al fatto che la crisi si stia scaricando sulle categorie più deboli, quindi giovani, dipendenti che sono nella parte finale della loro vita professionale, donne? Ma guardi, in effetti il mercato del lavoro, se noi osserviamo i dati con un'ottica più di medio periodo, di fondo sta iniziando un periodo negativo dal 2008, che è l'inizio della grande crisi finanziaria, poi crisi economica, e attraverso due recessioni, senza nemmeno aver sentito quella piccola ripresa del 2011 che il PIL ha avuto, insomma nell'anno che abbiamo chiuso il PIL è stato positivo, nel 2012 sarà negativo, mentre il mercato del lavoro tutto sommato questo piccolo rimbalzo non l'ha avuto, e i dati del 2012 non possono essere particolarmente positivi, perché sappiamo benissimo che la recessione è in corso e aumenta durante l'anno. E il dato in quest'ottica, diciamo più strutturale, il dato che più colpisce è sulla disoccupazione giovanile, che è un numero strano, questo 30%, uno può dire ah, ma com'è possibile al sud 50% vi è una parte di sommerso. Potrebbe anche essere vero, ma nel 2007-2006 questo dato, che oggi è il 32, era il 18. Quindi la dinamica di questo numero è impressionante. Quindi davvero sembra che l'aggiustamento di questa crisi sia avvenuto, ovviamente le imprese hanno sofferto molto, ma in termini di popolazione in larga parte sui giovani. Oggi cosa si fa per la flessibilità in ingresso? Ovviamente le imprese non hanno tanto da assumere, perché come dicevamo prima, in questo momento il vero problema è la mancata crescita, certo. E la mancata in crescita è per loro rimanere in vita. Tutto sommato, a questi giovani l'articolo 18, ma non lo vedono nemmeno con il binocolo. Questi giovani, sostanzialmente quelli che hanno un contratto, l'ultimo problema è l'articolo 18, perché hanno contratti che sono intermittenti, che hanno di durata breve e che quasi con bassa probabilità si trasformeranno in un lavoro a tempo indeterminato, dove appunto ci sarà da essere protetti con l'articolo 18. La riforma sulla flessibilità in entrata si concentra sull'apprendistato, che di per sé è una cosa positiva se riguarda i giovani. L'apprendistato è un contratto che dovrebbe essere a tempo indeterminato, è un periodo formativo dove il rischio di abuso è sostanziale. Beh, elimina anche l'obbligo di partita IVA per lavori che sono lavoratore dipendente. E quello dobbiamo vedere esattamente come eliminerà questo obbligo, se saranno trasformati in lavoratori a tempo indeterminati davvero, perché come sa non abbiamo purtroppo ancora un testo di questa riforma, quindi vi sono... Sì, le polemiche le abbiamo già, il testo no. Esattamente, quindi io voglio leggere, non l'ho detto, perché voglio leggere come avviene questa trasformazione delle partite IVA in lavoratori a tempo indeterminato. Sarebbe un'ottima cosa se si riuscisse a fare, anche perché su questi precari poi l'aumento dei contributi dei contratti a progetto, il rischio è che si trasformi in minor salario, perché sono molto flessibili i salari. Senta, professor Garibaldi, lei è un economista oltre che studiare il mercato del lavoro, certo. Ma se io le dicessi che in questo periodo abbiamo sentito parlare molto Mario Monti in quanto anche ministro dell'economia, molto il ministro Fornero, e quindi pensioni e mercato del lavoro, Mario Monti sul fronte tasse e anche correzione dei conti pubblici, manovra rozza ma efficace. Però abbiamo sentito un po' parlare poco il ministro Passera, cioè le politiche, si chiamava Ministero dello Sviluppo Economico, le politiche per lo sviluppo? Beh, indubbiamente è un dato di fatto... che tra i tre ministri citati Corrado Passera abbia tenuto un profilo più basso, anche se sono certo che giorno per giorno sta cercando di fare interventi sul singole aziende in crisi per cercare di risolvere. La scorsa settimana ne abbiamo avuto, tuttavia manca un chiaro disegno, un chiaro piano per mettere l'Italia sul sentiero di crescita. Questo è senz'altro vero, è molto difficile farlo senza risorse, senza quattrini, però dal lato infrastrutture, dal lato investimenti forse qualcosa di più si potrebbe fare, cioè di mettere in moto, riaprire i cantieri, cosa di cui si parlava, lo stesso Corrado Passera ne parlava tanto nei suoi interventi. Sono sicuro che quelle idee che aveva anche quando era banchiere, prima di fare il ministro, di rimettere in moto, perché è anche ministro delle infrastrutture, sarebbe un modo che per in qualche modo dare lavoro relativamente veloce e aumentare lo stock di capitale del paese, che molto ha bisogno, in particolare le infrastrutture già approvate, già appaltate. Sì. Eh sì, perché il vincolo di bilancio. Sì, anni fa, anni fa, qualche mese fa, proponemmo di dire: vabbè, decidete, fate la lista delle, degli appalti, delle infrastrutture che sono, non so, al 70% già realizzate. Non mi importa se siano grandi opere o la manutenzione ordinaria di una strada, va bene tutto, basta che se è già al 70, dico 70 per dire, date a quelle la priorità, così le chiudiamo, no? Così chiudiamo almeno quelle, facciamo ripartire i lavori e chiudiamo le opere. Mi dica una cosa e poi la lascio, professor Garibaldi, ma sul fronte invece delle imprese che vantano 70 miliardi di euro nei confronti della pubblica amministrazione, lei ritiene percorribile l'ipotesi che fece balenare sempre il ministro Passera di pagarli con titoli di Stato che andranno a riscuotere a scadenza, cioè non venderanno sul mercato secondario subito? Perché poi è scomparsa questa ipotesi. Questa era un'ipotesi affascinante, in effetti, dicendo che praticamente erano i primi giorni che era ministro e mi ricordo che si parlò di questa ipotesi. In fondo diceva che era un'ipotesi fantasiosa che dimostrava anche la capacità sua finanziaria di applicarla a trovare soluzioni anche nel ruolo del ministro. Indubbiamente è sparita e io ritengo che sarebbe un'ottima iniziativa, perché darebbe, in qualche modo risolverebbe uno dei buboni del paese, ossia questi crediti non pagati da parte della pubblica amministrazione, che purtroppo in Italia nessuno paga nessuno, ma il primo a essere responsabile di questa cosa è la pubblica amministrazione. Quindi siamo proprio nel cattivo equilibrio in cui non ci si paga mai, nonostante si riconoscano debiti e crediti. Chiaramente nel breve periodo vuol dire aumentare il debito, questa cosa è di cassa, perché sostanzialmente questo debito pubblico diventa di mercato e è ovvio che ha un impatto di cassa, e penso che questo sia il motivo per cui non fu attuata. Ma di fondo questi debiti ormai ci sono e quindi portarli a galla è molto meglio. Cioè, non è che puoi immaginare di lasciare morire gli imprenditori così poi non vengono più a riscuotere il debito, eh? Cioè, tanto ce li hai 70 miliardi da dare agli imprenditori, no? Cioè, li devi dare, non li hai, ma li devi dare, per cui esattamente. Mettere... Poi sono già comunque iscritti a bilancio. Sono già iscritti a bilancio, per cui fanno già parte del nostro debito. Trova una formula per cui magari dai un bot o un BTP a 3 anni che io posso riscuotere solo alla scadenza, non posso venderlo, ma almeno vado in banca con sto BTP e dico: guardate che fra 3 anni lo Stato mi darà 50.000 euro o 100.000 euro, non so. Troviamo un modo, lancio un appello in trasmissione e poi la saluto. Tutti gli imprenditori, che piccoli, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, che rischiano di chiudere, però mi raccomando onestà, perché non ottengono linee di credito dalla banca, ma vantano crediti invece con lo Stato, ci scrivano focuseconomia@radio24.it e vedremo di portare i casi più emblematici in onda, perché questa cosa veramente grida vendetta. Grazie. Allora, professor Pietro Garibaldi, c'è chi ci chiede se pagare i crediti, cioè i debiti ai privati, non equivarrebbe a stampare nuova carta moneta. No, equivarrebbe, a parte che la stampa solo la BCE, equivarrebbe a aumentare il debito, però questi debiti li hai, cioè non è che se io devo a uno 100.000 euro, siccome non glieli do, faccio finta di non doverglieli. Ma che discorso è? Li hai già messi a bilancio, sono debiti che devi pagare a chi ti ha già fornito un servizio o un bene. Daglieli, trova un modo che faccia meno male possibile, ma che soprattutto possa essere girato da queste persone in banca, che basterebbe a questi imprenditori poter avere un certificato dello Stato che dice: lo Stato fra un anno mi paga, ho il certificato, quindi tu inizi a agire il credito perché ho i soldi dello Stato che mi devono essere dati, non di un privato che magari poi fallisce. Lo Stato non può fallire, quindi è un credito di buona qualità quello che io vanto. Vabbè, la borsa. Poi c'è anche chi si è offeso per i controlli della finanza al sud. A Napoli li abbiamo visti, in altre parti non mi risultano. Poi quando arriveranno li racconteremo, ci mancherebbe. Meno 0,20% Milano, meglio decisamente le altre borse, più 1,14% Parigi, più 1,60% Francoforte, più 1,80% Londra. Zavorrata da alcuni titoli bancari, Azimut, Popolare Milano, Popolare Emilia Romagna e Unicredito. Con di nuovo in evidenza però anche Prema Film, meno 6,74% la finanziaria di controllo di Fondiaria SAI. E l'onorevole Micheli, buonasera. Buonasera. Radio Corriere Sole 24 Ore. Visto che abbiamo raccontato lungamente il bilancio del 2011 con 30 milioni di bonus distribuiti a tutti, 10 milioni di liquidazione all'amministratore delegato che lascia un gruppo con 1,6 miliardi di perdita, cioè, immaginate se un lavoratore, un operaio che diciamo, ha un risultato del genere, che bonus può ricevere? Comunque, oggi se no, mi arrabbio troppo, ed è solo lunedì. Dici Prema, fine fondiaria. Sì, Fondiaria ha perso il 3%, le risparmio lo 0,93% e ha fatto peggio la società che la controlla, Premafin, meno 6,7%. E peggio ancora ha fatto inoltre Unipol, anche se sul finale ha arginato le perdite, quest'oggi era arrivata a perdere invece più del 10%, sul finale ha registrato un calo dell'1,75%. Questo perché oggi ricordiamo che è avvenuto l'accorpamento delle azioni, un'azione è stata accorpata a 100, probabilmente anche per effetto ottico oggi gli investitori hanno iniziato a vendere veramente a piene mani, tant'è come ripeto che i titoli sono arrivati a perdere oltre il 10%, poi hanno recuperato sul finale e ovviamente sul mercato si continua a dire che probabilmente Unipol risente, al di là dell'effetto ottico di quest'oggi, anche del fatto che fino a che non avverrà la fusione con Fondiaria SAI ci saranno i dubbi e soprattutto fino a che non avverrà l'aumento di capitale da oltre un miliardo i titoli potrebbero continuare a soffrire. Scusami, che è l'effetto ottico? Cioè, perché nel la borsa ci ha abituato anche a prendere lucciole per lanterne. In teoria, quando avviene l'accorpamento delle azioni non dovrebbero esserci sbandamento, non dovrebbero succedere niente sul titolo. Di fatto ogni volta assistiamo a diciamo delle montagne russe del titolo, cioè ogni volta che avvengono questi accorpamenti c'è chi... strano ma vero, ma si sveglia la mattina, vede il titolo a un prezzo esorbitante e magari inizia a vendere. Sembra una cosa assolutamente strana, ma è assolutamente così. Comunque tu ci confermi le indagini in corso sulla galassia che io chiamo buco nero di Gresti, col massimo rispetto per i dipendenti di Fondiaria SAI, di Prema, fin di Milano Assicurazioni. Sui manager di massimo livello invece il giudizio è un po' diverso, come avrete capito. Dicevo, ci confermi l'indagine in corso, no? Che quella poi è la spada di Damocle sull'intera operazione. Anche. Esatto, anzi, se vogliamo dirla tutta, oggi diciamola è andata tutta. Giù anche Mediobanca, meno 0,3%, perché sappiamo che alla fine Mediobanca è il primo creditore di Fondiaria SAI e oggi peraltro Alberto Nagel, numero uno appunto di Mediobanca, è stato sentito come test ma in procura di Milano. I dati auto sono usciti, Fiat ha perso più della media del mercato, meno 26,7% anzi a marzo ha fatto meno 23% in Francia, il mercato è meno 26,5% il gruppo Fiat in Francia. In Italia abbiamo solo il dato sul dato complessivo ed è meno 26,7%, adesso aspettiamo anche il dato sul Fiat, sul gruppo Fiat e le altre case automobilistiche. Dicevo, male oggi tutte le banche, non malissimo, però Pop Milano meno 2, Emilia Romagna meno 1,70, Unicredito meno 1,40, con l'unica eccezione di Monte dei Paschi che recupera qualcosa, il 2%. Sì, esatto, del resto lo spread rimane sempre su livelli elevati. 3,30, no? 330 punti, esatto, allimato sul finale ma rimane sempre su livelli elevati e questo sappiamo che penalizza le banche. Monte Paschi ha recuperato l'1,99% dopo la debolezza delle ultime sedute, venerdì in tarda serata la fondazione ha fatto sapere di aver venduto oltre l'11% del capitale a investitori privati, non sappiamo bene identità a parte la famiglia che controlla la società Menarini che ha acquistato oltre il 4% e ovviamente questo piace al mercato, la banca diventa un po' più contendibile e diventa un po' più public company visto che non è entrato un unico soggetto, un unico investitore, ci sono tanti azionisti e comunque la fondazione rimane sempre sopra il 40%. Tra l'altro vedo una notizia battuta adesso dalle agenzie, il segretario del PDL Alfano si sarebbe detto d'accordo con Bersani sul reintegro del lavoratore anche per motivi economici, riferito alla riforma dell'articolo 18, lo leggo così come lo vedo, mentre è arrivato anche il dato su Fiat che ha fatto meno 35,5 a marzo come gruppo. contro un meno 26,5% del mercato, quindi ha perso il 10% in più del mercato e la quota è scesa al 26%. Ma adesso ne parleremo. Di Monte dei Paschi hai detto Pirelli più 4,20 oggi. Sì, Pirelli oggi si è comportata bene, ha accelerato soprattutto sul finale, non per motivi particolari, sono più acquisti anche di natura tecnica. Peraltro, anzi, il settore auto non è che abbia fatto il settore auto in Italia, come abbiamo detto, come hai detto tu, è andato male, con Fiat che ha perso oltre l'1%, proprio perché la notizia delle immatricolazioni era stata un po' annunciata. Marchionne aveva definito marzo, già nei giorni scorsi, un mese orribile. In Europa il comparto è andato bene, quindi questo ha dato il là anche una serie di acquisti, ovviamente nel settore dei pneumatici, in primis su Pirelli. Ancora, sì, è vero che la borsa andava peggio, poi ha recuperato quasi tutto, si sono mossi bene alcuni titoli. Fiat Industrial più 1,70, di Assorno in più 1,30, Tenaris più 1,30, Tods più 1,20 percento. Enel oggi di nuovo in difficoltà, tra l'altro Enel Green Power ha perso il 2%, Enel l'1,20%. Enel ha ceduto il 14% dopo il piano presentato l'8 marzo, festa della donna ma non dell'Enel. Soprattutto oggi i titoli hanno toccato i minimi storici, ha perso, come hai detto tu, il 14% dopo i conti 2011 e il piano industriale, che ovviamente ha fatto precipitare un po' le azioni, soprattutto per il fatto che anche non c'è visibilità sui dividendi e quest'anno è stata data una bella sforbiciata. Per quanto riguarda comunque l'andamento di oggi, legato anche al fatto che si teme che la controllata spagnola Endesa possa subire il contraccolpo delle misure del governo spagnolo e in particolare, secondo gli esperti, Endesa potrebbe registrare un calo dell'EBITDA, cioè dei margini, tra i 350 e 400 milioni. Ancora bene Ferragamo, il secondo miglior titolo, più 2,80% a 16 euro quasi per azione. Eh sì, la moda continua a far numeri, a andar bene, del resto abbiamo visto che nel fine settimana in Cina l'attività manifatturiera è andata bene, meglio delle attese. Salvatore Ferragamo esporta molto in Cina e in Asia, come tutte le società appunto del comparto moda, e quindi si continua a scommettere proprio su questi settori e su queste società. Beh, non è un mistero, avete visto ieri la notizia di Starbucks che triplicherà i suoi negozi in Cina da qui al 2015, li ha raddoppiati Luxottica, tutti quelli nel settore moda ma in generale che sono presenti in Cina in questo momento stanno andando bene. Cina, anche Brasile, dove però i dazi qualche difficoltà in più ce l'hanno. Cina che sta salvando anche, notizia di oggi, il mercato della cinematografia di Hollywood grazie appunto ai consumatori cinesi, e che potrebbe anche salvare il mercato dell'auto. Nel frattempo vi do i migliori e peggiori: Meridiana meno 20%, Mondo TV meno 17%, sul fronte opposto Pininfarina più 6,70%, Richard Ginori, tra l'altro sospesa anche per eccesso di rialzo la Richard Ginori, no? È rimasta sospesa per quasi tutta la seduta, poi ha fatto più 5%, fino a pochi giorni fa si temeva il peggio per l'azienda, in verità è stata convocata per i prossimi giorni un'assemblea straordinaria chiamata a ripristinare il capitale, quindi questo fa ben sperare in un rilancio della società. Dicevo Ferrovie Nord Milano più 4,30%, la Cina forse sarà il futuro dell'automobile, ammesso che si riesca lì a esportare. Per quello che vediamo non lo è invece l'Europa e sicuramente il mercato italiano in questi mesi. Grazie, l'onore Michele, Radio Colli, Sole 24 Ore. Meno 26,7% il mercato immatricolazioni auto a marzo in Italia, contro un calo già a febbraio del 19%. Fiat anche a marzo fa peggio della media del mercato, le immatricolazioni scendono infatti del 35,5%. La quota del gruppo Fiat in Italia scende al 26%, pensate che un anno fa era quasi del 30%, cioè ogni 100 auto vendute quasi 30 erano di marchi Fiat, quindi Lancia, Alfa Romeo, Fiat, adesso siamo a 26. Marchionne l'aveva detto, il numero di Fiat sarà un mese orribile, ma non è che basti dirlo per risolvere i problemi. Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, buonasera. Buonasera Sebastiano. Buon anno. Buon anno. Non ci sentiamo dal 2011. Ma è colpa, sì, mia, è colpa mia, è colpa mia, colpa mia. Però, detto questo, vabbè, che ci sia la crisi, a parte Monti che ha detto che ne siamo usciti in Europa dalla crisi, qua lo sappiamo tutti, e difficilmente uno cambia l'auto quando ha difficoltà a arrivare a fine mese, quando si aspetta l'IMU, quando c'è l'addizionale IRPEF e via discorrendo. Però mi dai una spiegazione plausibile del perché Fiat perda il 10% in più, cioè meno 26% mercato, meno 35,6% i marchi Fiat? Beh, ci sono due spiegazioni. Anche in Francia, andamento analogo, l'unica differenza è la Spagna oggi, dove... perché in Francia il Fiat ha perso 5 punti più del mercato, della media del mercato, tra l'altro meno 30% per il marchio Fiat in Francia e meno 28% per Alfa Romeo. In Spagna, a fronte di un calo del 5% quasi delle immatricolazioni, Fiat ha aumentato le vendite del 3%, 2100 unità. Lancia ha fatto più 121% con 268 auto vendute in Spagna a marzo, Alfa Romeo invece ha fatto meno 50%. Gianprimo, l'Italia. Ma la spiegazione del meno 10% di Fiat è... Lo sciopero delle bisarche? C'è anche lo sciopero delle bisarche, che ha penalizzato forse Fiat più di altri, ma c'è anche e soprattutto il fatto che la gamma Fiat non è in questo momento così completa da poter raccogliere tutte le sia pur poche possibilità che ci sono sul mercato, quindi soffre più degli altri, è una scelta. Ma quale parte della gamma? Fiat come marchio, Lancia, Alfa Romeo? E oggi soffre molto Alfa Romeo, meno 45-59, soffre Fiat, meno 36. Ma perché è troppo basata su Mito e Giulietta, chiedo, Non è sostanzialmente questo, è che mancano modelli nuovi, mancano modelli che siano veramente competitivi con quelli che in questo momento offre la concorrenza, che operando soprattutto in tutti i grandi mercati in cui si fanno profitti e in cui le cose vanno molto bene, dalla Cina al Brasile, all'India, alla Russia, sta sfornando, lo abbiamo visto a Ginevra, modelli nuovi a getto continuo. Ma anche in Cina la Fiat c'è poco, ma c'è più l'Iveco, ma in Brasile però siamo presenti. In Brasile infatti fa degli ottimi risultati, però nello scacchiere mondiale Fiat in questo momento non è così aggressiva, anche perché ha grossi problemi da risolvere sia in Italia ma anche negli Stati Uniti ancora. Quali? Problemi di assetto produttivo, problemi di ristrutturazione, quindi ha fatto una politica soprattutto in Italia dichiarata di contenere gli investimenti sui modelli in questa fase di mercato difficile, per poi rilanciare e giocarsi tutte le sue carte quando vi sarà una ripresa. E quando? E probabilmente quando sarà riuscita anche ad avere un partner che possa portarla a una produzione di circa 6 milioni di autovetture all'anno. Un altro partner, mi pare che sia chiaro che Fiat lo sta cercando. Questo potrebbe dare una... Ma è sempre Opel dopo l'accordo Peugeot GM essere l'oggetto del desiderio? Si dice, potrebbe essere sempre Opel, però mi pare che sia un corteggiamento che dura da un po' troppo tempo per poter andare in porto. Ci sono anche matrimoni di interesse, non solo quelli per amore a un certo momento. Certo. Una cosa Gianprimo, poi ti lascio, ma come vanno i modelli Fiat, quelli diciamo... cooptati, presi e raccolti dalla Chrysler? Vanno abbastanza Fiat bene. Fiat e Lancia? Sì, vanno abbastanza bene perché infatti Chrysler, Jeep, Dodge cresce del 13,92% in questo mercato che cala del 26,72%. Quindi questi modelli vanno bene, ma non ci sono modelli Fiat che vanno male, cioè non è che ci siano modelli che non siano competitivi con gli altri, c'è un'offerta che è più limitata, ci sono meno modelli rispetto ai concorrenti. Io spero che abbia ragione Marchionne nel dire intanto non li sforno i modelli perché in questo momento il mercato è depresso, aspetto che il mercato si ripigli. Faccio notare che da questa crisi dovevamo uscire nel 2010, poi nel 2011, mo nel 2013, cioè non vorrei che fosse troppo... Sono successi di guai, No, no, ma chi dà, ma nessuno dà la colpa a Marchionne, non vorrei che la strategia di aspettare la ripresa economica ci portasse poi come prossimo modello quello dell'autoidrogeno, no? Ma l'autoidrogeno mi pare che sia definitivamente tramontata, adesso si parla di elettrico. Si parlava fino a poco tempo fa di metano, ma il metano ad esempio è diventato molto competitivo in questo momento con la benzina e il gasolio. No, vabbè, tanto la battuta l'hai capita, ma non la vuoi apprezzare, dai, non c'è problema. La Fiat, sempre la Fiat. Gianprimo Quagliano, grazie. Adesso arriviamo all'IMU, però vorrei farvi sentire, in modo da dire, l'avevamo detto, quanto ha riferito dal workshop Ambrosetti a Chernobyl nel fine settimana il guru dei gufi, o meglio l'economista Mr. Doom, Dr. Doom, se non ricordo male, considerato un menagramo, un portasfiga, che però ci ha sempre azzeccato, Nuria Rubini, sugli sviluppi della crisi, data dalle previsioni, ragazze, che il gufo viene in automatico, però Rubini prima. Well, I would say the firewall, of course, at the margin helps, as well as the actions of the ECB. But penso che il sistema di protezione, il firewall, così come l'azione della BCE, siano d'aiuto. Ma i problemi fondamentali della zona euro sono l'eccessivo debito pubblico e privato, la mancanza di crescita, la recessione nei paesi periferici e la scarsa o assente competitività. Questi problemi non possono essere risolti solo con la liquidità. Serve una vera ristrutturazione, insieme a una riduzione del debito. Nel breve termine, l'austerità sui conti pubblici, anche se necessaria, ha un effetto depressivo. Io credo che ci sia bisogno di un deprezzamento dell'euro e vedo alcune opzioni. Una discesa significativa del valore dell'euro. La seconda opzione prevede riforme strutturali per aumentare la produttività. La terza opzione risiede nella deflazione, ma porterebbe a una recessione ancora maggiore. E se queste opzioni non sono possibili, per alcuni paesi la sola strada è uscire dall'euro. Occorre una svalutazione dell'euro per riportare competitività e crescita. La periferia della zona euro è certamente in recessione e questa non passerà facilmente, perché il rigore dei conti pubblici è un fattore recessivo. In secondo luogo, l'euro è troppo forte. Terzo, c'è ancora una stretta del credito nei paesi periferici. Quarto, il prezzo del petrolio sta salendo e l'Europa dipende fortemente dal petrolio, più degli Stati Uniti. E poi c'è l'incertezza politica, le elezioni francesi, il referendum in Irlanda, la situazione greca e spagnola. Questi elementi spiegano, a mio parere, perché la recessione nella zona euro continuerà ancora per qualche tempo. Oh, vi dico solo che il gufo si è rifiutato di intervenire con il suo grido dopo le parole di Rubini, ha detto: se c'è questa concorrenza sleale io mi ritiro. Cioè, veramente. Poi è anche previsto che a breve Irlanda e Portogallo seguono la Grecia. E vabbè. Gianni Trovati, buonasera. A voi. A voi, mi raccomando. Buonasera a voi. Mi sembra un nuovo grido. Per carità. Ecco, allora... che cosa sta succedendo sull'IMU? Perché abbiamo un'intervista che ha realizzato la nostra Valeria De Rosa, in cui Valeriano Canepari, coordinatore della consulta dei CAF, Centri di Assistenza Fiscale, fa notare che l'anno scorso erano arrivate in ritardo le indicazioni sulla cedolare secca, quest'anno è la volta dell'IMU, e dicono: attenzione, non scaricare la confusione sui comuni, dicono i rappresentanti dei comuni. Ma insomma, i CAF hanno sottolineato la crescente preoccupazione e il disagio per l'assenza di indicazioni. Solo il 6% dei comuni ha deliberato la nuova aliquota. È vero che c'è una proroga fino al 30 settembre, ma se ho ben capito, la prima rata va pagata il 16 giugno. Ma che rata paghiamo? Allora, è l'acconto dell'IMU, perché l'IMU ha portato con sé il calendario previsto dall'ICI. Finché c'era l'ICI, però, che era una vecchia imposta che seguiva il suo tran tran tranquillo, non c'era nessun problema, perché a giugno tutti i comuni avevano già deliberato le aliquote, a parte che negli ultimi 2 anni nemmeno potevano spostarle. Comunque avevano già deliberato le aliquote, per cui si arrivava all'epoca dell'acconto sapendo bene quanto si doveva pagare per tutto l'anno e quindi quant'era la misura dell'acconto. Adesso invece, siccome ci sono forti problemi nella stima del gettito e siccome il gettito interessa anche allo Stato, perché metà va allo Stato tranne quello prodotto dall'abitazione principale, tutta la partita delle decisioni locali sulle aliquote è ferma, per cui allo stato dell'arte c'è l'obbligo di pagare al 18 di giugno quest'anno, perché il 16 è sabato, ma comunque non cambia nulla, al 18 di giugno l'acconto, ma non si sa come calcolarlo. Il problema è che le norme prevedono anche che se tu di acconto paghi meno del dovuto, poi ci sono le sanzioni. Allora c'è un buco normativo abbastanza importante da sanare. Buco normativo che viene accresciuto dagli emendamenti diffusi nei giorni scorsi al decreto fiscale, perché proprio prendendo atto della difficoltà o impossibilità di capire adesso quant'è il gettito, si dà tempo ai comuni fino al 30 di settembre per fissare le aliquote, quindi 3 mesi e mezzo dopo l'acconto che non si sa come calcolare. Una soluzione ci sarebbe, ed è quella di far calcolare l'acconto sulla base delle aliquote standard, quelle fissate dalla legge statale, 4 per mille l'abitazione principale, 7,6 per mille gli altri immobili, tranne qualche categoria. Cioè usare quello come acconto? Come calcolo? Usare quello come base di calcolo dell'acconto, poi dice ci vediamo a dicembre per aggiustarsi la mazzata finale a dicembre. Questa ipotesi, che era anche già spuntata in una delle prime versioni del decreto fiscale, era stata accantonata probabilmente perché l'acconto fissato ad aliquote standard è meno generoso con le casse pubbliche rispetto a quello fissato con le aliquote dei comuni, perché quasi tutti i comuni hanno intenzione o stanno studiando rialzi. Il problema è che a scegliere tra un acconto meno generoso e un acconto impossibile, forse è meglio, come dire, adeguarsi all'idea che va ripreso quel meccanismo. A giugno si paga sulle aliquote standard e poi a dicembre ci si vede per fare il punto e aggiustare. Questa è l'unica soluzione che sembra possibile attualmente. Una notizia, sì, scrive un ascoltatore: il mio commercialista oggi mi ha pregato di fornirgli indicazioni sul pagamento dell'IMU nel mio comune. Chiede l'ascoltatore: posso emettere fattura per consulenza al commercialista? Al di là della battuta, no, però, questo fa vedere. Quando è che il governo pensa di scioglierci, diciamo, allora, adesso in questi giorni il decreto fiscale è all'esame delle commissioni in Parlamento e lì è la sede adatta, insomma, per mettersi una mano sul cuore e fermare un'altra nel portafoglio, ma questi contribuenti. Sì, chiudiamola qua che è meglio. Allora, 18 e 28 minuti termina la puntata di Focus Economia. Gianni Trovati, ci risentiremo come spesso facciamo, perché su questo la parte è tutta aperta. Vedremo quale indicazione arriverà, almeno per l'acconto, ripeto, quello di metà giugno. Da Sebastiano Barisoni, auguri di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.